Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Mai mi capitò di vedere una ragazza seduta in treno in questa maniera. Non saprei dire esattamente se sembrava una contorsionista, un giocoliere, un atleta, una ginnasta, insomma non so dove stavano i piedi, non so dove stava la testa, ma quella era probabilmente la sua maniera per stare comoda. Cominciò a parlarci casualmente in un treno italiano, perché non vive in Italia, questo l'ho capito, lo vedo dal bagaglio, lo vedo dal modo di vestirsi, lo vedo dallo sguardo critico verso tutto ciò che circonda e gli ricorda il paese d'origine. Devo saperne di più di questa ragazza, devo capire la sua attitudine alla postura irrituale e devo capire perché si trova in Italia, visto che vive altrove. Sei una nota contorsionista? Non più tanto, però ho iniziato circa 3 anni fa. E cosa facevi? Ma è iniziato tutto nel cercare un attimo qualcosa da fare in termini di sport, e tendo a annoiarmi facilmente, quindi ho trovato una piccola palestra tutta in legno, era simpatica, c'erano tante le tele appese ai soffitti, i cerchi, era molto colorato. E quindi mi sono iscritta, ho iniziato a fare, sono arti circensi praticamente. Ma qual è la tua specialità a circense? La cosa che piaceva di più era il cerchio, e poi dal cerchio sono passata al palo verticale. È un passaggio impegnativo dal cerchio al palo? In realtà al cerchio impari a sollevarti, quindi eserciti più forza muscolare con le braccia, e poi col palo è più una questione di agilità attorno a quest'asse verticale. Cioè tu in 3 anni sei diventata una ginnasta da circo? non proprio ginnasta da circo, però sì, mi divertivo, facevo le mie architetture aeree, diciamo. Ma hai fatto dei numeri, ti sei esibita in dei circhi? No, non nei circhi, semplicemente lì nella palestra. Poi facevamo dei saggi di fine anno, ecco. Ma assieme a te chi c'erano? Personaggi di circo, artisti circensi, chi c'era? Allora, in realtà all'inizio sì, l'ambiente era molto solare, c'era un insegnante di circo che proprio aveva... Solare nel senso, le Cirque du Soleil, in questo senso qua? Sì, facevano esattamente le stesse cose, le tele, quelle che le sete dal soffitto, bellissimo, i cerchi aerei, e poi c'era l'insegnante che aveva fondato poi questa scuola, che invece si occupava principalmente dei pali e delle sete. Il fatto è che lentamente l'ambiente si è trasformato e tutti i circensi si sono lentamente allontanati dall'insegnante principale, e l'ambiente si è trasformato da un ambiente molto solare, appunto circense, a qualcosa di più cupo, ed è strano. Ma cupo in che senso? Fammi capire cosa succedeva. Intanto l'ambiente era principalmente femminile, però c'erano anche degli insegnanti uomini, c'erano anche dei ragazzi che imparavano le arti circensi. E invece sono diventata poi diventata un territorio di caccia per dei bruti che venivano lì a cercare artisti. No, in realtà no, non è mai successo. Non, e allora perché è degenerato? Perché... Qual è la degenerazione? Si è trasformato come in un ambiente unicamente femminile e estremamente emotivo, come se l'insegnante avesse posto delle unioni emotive con le proprie allieve predilette. Vabbè, era, diciamo, una che andava a caccia di ragazze e sarà fatta il suo harem, diciamola così. Praticamente alla fine. Sì. Ah, esatto. Beh, ci vuole tanto a capirlo. Eravate le sue prede sessuali, questo dico con la scusa del circo. Era così. Io poi vabbè, ma succede, basta capirlo. Sì, sì, sì. Io all'inizio non capivo neanche, parlavo l'inglese, però era più un inglese basato sul mio lavoro, quindi non... Qual è il tuo lavoro, tanto per capire? Faccio il medico. Ah, tu sei un medico, cioè, sì. Nella vita fai il medico, dove eserciti esattamente? In una pratica, qui non si chiama pratica, medicina di famiglia. Ma in che città? Perché mica hai detto che lo sappia. Sì, la città è al sud a Eastbourne, vicino a Brighton. Ah, quindi tu sei un emigrata a tutti gli effetti? Sì, sì, sono... Da quanti anni sei emigrata dall'Italia? Sono emigrata 5 anni fa, però avevo già avuto qualche esperienza in Inghilterra prima. E quindi adesso sotto Brexit che succede a te? Per questo stai studiando il circo, smetti di fare il medico, andrai a fare l'artista al circo. Posso fare il circo senza dubbio. Ma davvero, il risultato della Brexit, il tuo cambio da dottore, da medico ad atleta del circo, ginnasta, no? Potrei farlo, se poi mi stanco di sentire... No, torniamo al punto, dunque, allora, mi sembra tu hai capito che questa scuola che sognavi come un luogo in cui imparavi a fare l'artista di circo era l'equivalente... In campo maschile della spada de fuoco, diciamo la verità, era questo. Sì, praticamente. Sì, è diventato un ambiente abbastanza tossico, ecco. Ha pure cambiato, è strano perché ha cambiato anche proprio fisionomia, ha cambiato posto e da un piccolo centro tutto fatto in legno nel centro della città è andato in periferia in un vecchio capannone, tutto molto cupo, lucido. Ma adesso, senza fare nome, dare elementi di identificazione. Diciamo, la maîtresse di tutta questa roba che tipo era, per capire? Era una ragazza, ma anche molto giovane, neanche compiuti 30 anni, penso. Però si era organizzata bene. Si era organizzata benissimo, aveva un metodo estremamente efficace, poi visto a posteriori, in cui faceva classi a pochissimo, a 2 euro, a 1 euro. A questo punto, se eravate terreno di caccia, era esatto. Lì per attirarvi, è come le caramelle che danno ai giardinetti, la stessa hai cosa. Hai capito benissimo. No, è vero, chiaro. Allora, prendeva voi povere ragazze desiderose di dare una dimensione diversa alla vostra corporeità. Vi portava prima nella casetta di legno, come Hansel e Gretel, che bello, non costa nulla. Una volta che va messo sul palo e sul cerchio, come passava, diciamo, come hai capito che qualcosa non andava? Allora, principalmente individuava chi aveva dei bisogni più emotivi, quindi chi... I più fragili, le persone più fragili. Esatto, chi magari iniziava ad andare tutti i giorni, a tutte le ore, per togliersi da situazioni magari fastidiose a casa o vai a vedere. O, quindi andava a cercare le persone emotivamente provate, più fragili. Sì, emotivamente provate, un po' poco sicure magari di se stesse, che per carità lo sport è riuscire, anche metaforicamente, il fatto stesso di riuscire a sollevare te stesso... Ma poi lei, il fine era una sorta di euforia intensa. Ma il suo fine era darvi l'euforia sollevandovi lei, penso, no? Esatto. E infatti poi le persone che si sollevavano da sole andavano lì puramente per esercizio personale e con soddisfacenti risultati, piano piano venivano allontanate in un modo o nell'altro. Perché il suo scopo non era creare delle atlete, no, il suo scopo no. Era crearsi una sorta di harem. Ma con esatto. Te quindi non ci ha mai provato? Con me non ci ho mai provato perché comunque io tendenzialmente non parlavo molto con nessuno. Andavo beh, a farmi però, scusami, lì è il linguaggio del corpo che conta, non è che basta probabilmente parlare. Sì, anche quello. Non... Ma come hai avuto questa impressione che qualcosa non andava? Da cosa e l'hai poi capito? Vedi che si iniziano a formare dei circoli che parlano, si hanno dei codici, poi si creano dei codici. Fammi un esempio, sennò non capisco. Allora, a avevano un nome che adesso non mi viene neanche in mente, però si chiamavano tra di loro in un certo nome, si chiamavano proprio tribe, con tribù. E, quindi era una setta, si vedevano poi al di fuori della palestra, e poi le persone più dipendenti diventavano loro stesse insegnanti. Ma perché lei poi comunque era anche una forma di guadagno per lei, perché chi riusciva in qualche maniera a fare sua, diciamo, a fare sua, e iniziava a fare lezioni private. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Ehi, è il momento del Dub Party! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, che fai, non ti scateni? Dobbiamo festeggiare, perché da quest'anno io sono in tutte le auto nuove con il sistema Dub Plus. Figo il Dub Party! E allora, party! Festeggia anche tu il grande cambiamento. Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale in auto e in casa. Scopri la magia del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in digital radio. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Tu sei entrata in una setta, te ne sei resa conto? Sei entrata in una, non so lo scopo, setta, non so qual è lo scopo della setta, non credo sia soltanto quello della seduzione. Aveva come le sette si basano su questi due grandi elementi, che sono il denaro, il potere e il sesso, l'amore. Lei, diciamo, può essere anche interessata all'aspetto amoroso, ma secondo me era più interessata, alla fine c'era un business dietro che tu non capivi, non so quale sia, cosa andavano a fare queste ragazze, ma secondo me la tribù alla fine a qualcosa sarà servita, secondo me. Sicuramente a livello di business lei creava delle gerarchie di prezzi a seconda dell'insegnante con cui andavi, che comunque erano tutte sotto di lei, e quando facevi le lezioni private con lei erano 100, 150, 200, saliva tantissimo di prezzo. Beh, se sembra, sembra diciamo quelle organizzazioni piramidali che servono, esatto, alla fine, esattamente. Ma forse te non sei entrata nel livello più diciamo meno evidente, quindi non sai cosa facessero, però in realtà secondo me alla fine a qualcuno spillavano soldi, perché sennò non c'era senso, capito? Sì, ma era anche abbastanza palese. Poi comunque ho creato delle amicizie con altre persone che comunque sono rimaste sempre semi esterne, ma in particolare c'era un ragazzo che invece lui, essendo ragazzo, era come se fosse abbastanza immune, cioè veniva più avvolto da anche il circolo più interno, però rimaneva immune, diciamo, dal fascino di queste sirene, diciamo. Forse era anche gay, può essere. No, non era gay, aveva anche due figli, poi non vuol dire niente. No, vabbè, no. Il fatto che fosse immune poteva benissimo non essere interessato. No, non era sessualmente interessato a queste ragazze, comunque. Perlomeno da quanto dice lui, poi. Sì, però secondo me, da quello che riesco a capire, il fine era proprio reperire donne, era una sorta di setta di sacerdotesse, delle pitonesse. Sì. C'era una sorta di mistero femminile che era il fine di questa cosa qua. Poi non so se andassero a raccogliere soldi, a fare rituali magici alla Dea Terra, non so bene cosa, però qualcosa. Facevano cose simili, nel senso, facevano delle volte dei ritrovi in cui utilizzavano più o meno sostanze, a quanto ho capito, e proprio, sì, incensi, tutte queste meditazione, sì, vabbè, sì, questo fa parte di questo genere. Beh, sai, questi canali più o meno orge. E te dillo, se mica c'è un problema. No, ma per carità, a me non importa nulla. Baccanale quello è. Sì, quando inizi a vedere, quando inizi a essere consapevole di queste dinamiche e c'è la consapevolezza reciproca, se poi tu non entri in quelle dinamiche, in qualche maniera vieni espulso. Però guarda, esiste una radice storica misterosofica antica, le sacerdotesse, la dea Cibele, questo facevano, raggiungevano l'ebbrezza, facevano dei grandi rituali femminili che facevano parte proprio di una certa maniera di gestire il potere delle donne, i misteri orfici, le pitonesse, le varie sacerdotesse, tutto questo era. Loro probabilmente si rifacevano qualche filone a queste cose qua un po' fra il New Age e le religioni di seconda mano, capito? Evidentemente, come quelle che fanno la Wiccan, queste cose qua, c'era qualcosa di simile, secondo me, alla fine. Sì, per carità, è anche abbastanza affascinante da vedere. Ma figurati, certo, io non c'edo niente di strano, è che no, tu sei fuori, tu andavi semplicemente, tu volevi fare la ginnasta, fine, non ti interessava, sì, il resto. Sì, e poi c'erano anche delle situazioni comunque in cui il potere della sacerdotessa, diciamo, centrale, doveva in qualche maniera esprimersi con delle, come si dice, doveva in qualche maniera far fare brutta figura o umiliare, certo, pubblicamente le sue suddite. Quelle che sbagliavano. Come si gestisce il potere? Così si gestisce. E quindi a un certo punto le pubbliche confessioni, le autocoscienze, cioè sono sempre esistite queste, capito? È una forma di gestione del potere. Lei sicuramente gestiva un potere, lo gestiva attraverso forme anche sottili, agendo sulle persone molto fragili, ma agendo nel profondo. Usava tecniche collaudate che si rifacevano anche a un filone culturale, tradizionale, esoterico e via dicendo. Quello che non mi è chiaro è il fine: o era una setta finalizzata semplicemente a quello che sono finalizzate le fette, a ottenere potere, a fornire dei livelli di iniziazione, non lo so bene, o diciamo formava e preparava delle sacerdotesse che venivano poi distribuite sul territorio per fare cose che non so nemmeno immagino, sinceramente. Secondo me un fine molto chiaro era anche quello economico, nel senso, lei doveva in qualche maniera ripagarsi Quindi era il suo lavoro, il suo business. Era il suo lavoro, assolutamente. E lo faceva, secondo me, in maniera esemplare, con anche comunque dei danni poi creati a certe persone. Comunque è una santona a tutti gli effetti, come le santone questo fanno. Certo. O fanno le guaritrici o si rifanno al filone cristiano cattolico, facendo gli esorcismi, togliendo le maledizioni, facendo le preghiere, o se no, ecco, scelgono quest'altro filone, un filone paganeggiante, misterosofico, antico, non lo so, qualcosa del genere. Ma lei come la chiamavano? Aveva un nome d'arte oltre quello suo? No, in realtà delle volte la chiamavano addirittura mamma, si faceva chiamare mamma. Ah, sì, successo, sì, ah, ecco. Era la grande madre, quindi si facevano al culto della grande madre, che è esattamente quello che ti sto dicendo io. Sì. Sì, è una setta esoterica femminile, è semplicemente sì, questo. Nulla di... C'è stato anche una ragazza però che ha tentato il suicidio. Ma le persone più fragili poi, sai, è uno stress forte. Ma nessuno ti ha mai detto che facevano, quando facevano questi baccanali, che succedevano? Sì. Te l'hanno detto che succedeva? No, perché solo la cerchia più ristretta era ammessa. Poi queste cose... esistono anche pettegolezzi. Quali erano i pettegolezzi? Così. I pettegolezzi era appunto che si ritrovavano più volte durante, facevano festeggiamenti, come possono anche essere festeggiamenti normali, il compleanno di una o dell'altra. Beh, e poi introducevano alcol, probabilmente droghe, cose varie. Vabbè, quello che fanno l'80% dei giovani dalle tue parti, sì, quando festeggiano. Giovani e non giovani. Perché c'era anche gente grande lì? Ma sì, guarda, si arrivava fino ai 50, tranquillamente. C'è anche signore abbastanza, diciamo, di mezza età, ecco. Sì. E le gerarchie come erano distribuite? Le persone più grandi erano anche quelle più alte a livello gerarchico oppure no, è indifferente? No, era indifferente, era più di quanto emotivamente fossero coinvolte, proprio anche... Quindi diciamo i livelli iniziatici venivano distribuiti dall'impegno alla partecipazione, ecco. Sì. E questa riusciva così giovane a avere questo potere? Quante donne erano in questo posto? Il circolo grosso di quelle che andavano anche semplicemente a far ginnastica una volta al mese, forse anche un centinaio di... Ah, una cosa grossa era. Sì, e poi il circolo proprio ristretto aveva le due adatte principali, tre, poi una di queste appunto ha tentato il suicidio e poi alcune se ne sono andate, ovviamente dopo comunque grossi eventi creano anche delle scissioni. E poi aveva altre tre o quattro che erano, imparavano per diventare loro stesse insegnanti senza, dal mio punto di vista, avere le capacità fisiche di farlo, però avevano le capacità avevano le caratteristiche la parte profana, cioè quello che era il pretesto, l'arte che insegnavano cos'era? Questa del circo, praticamente era l'arte quella del circo. Poi alla fine tutti i circensi appunto se ne sono andate e lei ha sviluppato più su a livello dei pali, quindi ha iniziato anche a fare cose più osè, pole dance, tutte queste cose qui che non c'entra niente col circo. Che non c'entra niente col giro. Poi sì, in realtà. Scusa, ma per fare pole dance ci vogliono della preparazione fisica reale. Non è che prendi una signora che fino a ieri prendeva l'autobus alla metropolitana e dice oggi fai la pole dance. Come facevano? No, fai un sacco di ore di esercizio. Poi tanti arrivano a un livello minimo e rimangono lì semplicemente per fare. Quindi non c'era il fine di progredire nell'arte, era solo un pretesto, ecco. Sì. Secondo me era un pretesto. Poi alcune che diventavano particolarmente bravi c'erano, però in generale chi diventava bravo poi veniva in qualche maniera, se diventavi più bravo degli insegnanti poi venivi ostracizzato in qualche maniera. Poi in realtà c'è anche tutta un'arte della pole dance, che non è neanche pole dance, è proprio pole, che è più circense. Diciamo che è il culto del grande palo alla fine, il messaggio esoterico. È così, lo gnomone che indica il cielo. Così era. Il palo era al centro, diciamo, di tutte le pratiche esoteriche o palesi. Esatto. Immagino come un totem, immagino come un feticcio, un idolo, una cosa del genere, ci siamo, ecco. Abbiamo chiuso il cerchio. Tu quando te ne sei andata poi? Hai deciso un giorno o l'altro non andarci più? Io, in realtà lì ho conosciuto una ragazza che eravamo entrambe brave a livello atletico e quindi abbiamo deciso di fare degli esercizi di stile in coppia, perché poi diventa più difficile, perché soprattutto se sei su un unico palo in due devi ti crei delle architetture certo, inimmaginabili architetture due con lo stesso palo. E dove l'hai messo questo palo? A casa tua? Alla fine dove allenate? No, ci allenavamo lì e alla fine c'era questo saggio finale e i rapporti tra l'altro si sono intensificati perché vedendola è che si era creata un'unione tra qualcuno non, in qualche maniera non gestita da lei, si è molto irritata di questa presa, diciamo, di... Quindi non era ammesso progredire nell'arte esteriore, perché questo significava che fuggivi al controllo della sacerdotessa. E neanche creare dei gruppi esterni, nel senso dei perché alla fine c'eravamo noi due con alcune delle altre persone che conoscevamo e eravamo diventati amici. E quindi si era creato un gruppo all'interno della situazione ed era esattamente inammissibile, che lo capisco, perché una persona che gestisce le cose in questa maniera molto gerarchica non può accettare un gruppo interno. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Allora, il mattino all'oro in... dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. Il treno va. si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Allora, io dopo il saggio proprio non parlavo più con queste persone. Però eri come bullizzata da un certo punto di vista, perché sì. Come a scuola quando nessuno ti parla più. Non mi sono fatta vedere. Vabbè, te sei presa a cuore, però ti dispiace, sento che lasci un po' di nostalgia. Mi dispiace perché comunque era uno sport che mi piaceva molto e... Però non farlo era... da solo è diverso, perché sì, però tu hai rasentato il rischio di entrare in una setta, devi capirlo questo. È un'attività di copertura quella finta. Sì. Lo scopo era un altro, evidentemente non faceva per te, sennò già stavi dentro, nemmeno me lo raccontavi. No, assolutamente, l'ultimo dei miei intenti entrare in una setta, ho già abbastanza impegni. Che impegni hai, perché? Di lavoro? Sì, di lavoro, poi mi interessa, faccio anche un po' di agopuntura, giusto per differenziare. Ma te le vai proprio a cercare col lumicino le cose strane? Un medico fa l'agopuntura, fa il medico, quello fa l'agopuntura, che c'entra? No, in realtà mi piace la muscoloscheletrica, mi piace il... mi piace anche... nel senso, essendo medico di famiglia, vedi qualunque tipo di casistica, da casistica psichiatrica alla casistica malattie cardiache o respiratorie o... A proposito, senti, capisci la mia tosse che ho? Sono venuta questa... che è? Senti? Sì, è abbastanza... sembra secca. Secca, quindi che devo fare? Quindi mi sa che è virale, se non ti viene proprio dei febbroni che non riesci a abbassare. Ho preso la tachipirina stamattina. L'hai presa? Sì, sto prendendo il Froben gola. Senti? Proben, non lo so, i nomi... È quella roba che si schizza in gola ogni tanto e ha dei 10 minuti che puoi parlare. le cose che generalmente gli sciroppi, gli spruzzini, tutte queste cose qua, niente. Sono praticamente provati di non fare assolutamente niente, soprattutto per allora livello virale. Ma mi infilo un ago. Acqua limone. E miele. Ho testato ed essere veramente un medico, che ne so io, tu me lo dici, ma mica, non mi è stato chiesto la patente da dottore. Ma tu quando è che sei arrivata in Inghilterra? Com'è stato? Tu ti sei laureata in Italia, dove ti sei laureata? Sì, mi sono laureata a Genova e poi sono andata subito su in Inghilterra. Ma perché c'era richiesta, hai detto vado a lavorare, a me non si lavora. Avevo un ragazzo su in Inghilterra. Che adesso ormai è seppellito dalla memoria, dall'oblio seppellito. Perché? Che ne so, c'è ancora? Sì. Ah, lui è sopravvissuto, quanti anni? 5 anni? Sì, in realtà ci siamo mollati a metà, però poi siamo tornati assieme. Quanto è durata la pausa? 2 anni. 2 anni di pausa è apparente come fosse un'altra persona, dai. Sì, esatto. Hai trovato, vabbè. Entrambi. E quindi sì, in realtà ero in dubbio se andare in Belgio o andare in Inghilterra, poi perché lui era in Inghilterra. Sono andata in Inghilterra il primo anno solo per fare i documenti, è stato ma tu c'eri già stata in Inghilterra, già conoscevi per andarci con questa sicurezza al posto? Non conoscevo il posto, infatti è stato un attimo il mio problema, perché sono andata su con sprovvista delle adeguate basi per poter... Non sono andata su senza il corso di inglese obbligatorio per poterti iscrivere all'ordine su. L'ho dovuto fare lì. L'ho ceffato 2 volte, quindi... Vabbè, comunque l'importante è che sei sopravvissuto. Ma c'eri già stata da ragazza in Inghilterra? C'ero stata quando avevo 16 anni, perché alla fine la fortuna dell'Italia è che le vacanze estive sono di 3 mesi, quindi ti puoi permettere di fare qualcosa di diverso, ecco. E mio nonno, che era un contadino in Francia, ora non so se hai presente, ma la campagna francese si sta completamente trasformando, si sta svendendo in gran parte a persone che comprano terre e coltivano senza neanche essere lì. E che ci mettono? Cosa coltivano? La lavanda? Coltivano patate, meloni. Terra sempre fatta per essere coltivata. Mio nonno coltivava patate in Francia e conosceva questo inglese che aveva un campo appunto accanto al suo, che aveva dei campi di fragole in Inghilterra. Allora, tuo nonno coltivava le patate in Francia, vicino c'era il vicino che invece aveva anche i campi di fragole in Inghilterra. Esatto. E cosa si sono detti? C'ho una nipote? Si sono detti, mio nonno gli ha detto, guarda, c'è mia nipote che vuole... vuole fare un lavoro quest'estate. E ti hanno mandato a coltivare le fragole in Inghilterra. Esatto. Quindi a 16 anni sono andata. E che facevi? Volevo le piantavi o le raccoglievi? O le innaffiavi? Che facevi? Allora, le raccoglievamo oppure toglievamo le erbacce. Ah, proprio un lavoro manuale da contadina, senza nessun attenuante. Sì. Comunque, quindi con le tue manine di fanciulla sedicenne, avevi le mani la sera tutte sanguinanti per le erbacce che avevi strappato, sì, con le mani. Sì, sì. Ma è un lavoro durissimo, uno sfruttamento terribile, eri anche minorenne. Sì, sì, però lì dai 16 anni in poi puoi lavorare. Ti viene pagato poco, però. Eravate tutte ragazze che andavano lì a fare le schiave nel campo di fragole, oppure per caso c'eri te, ma erano normali braccianti agricoli? No, la maggior, in realtà ero l'unica italiana, la maggior parte erano ragazzi e ragazze dall'est Europa, quindi Ucraina, Polonia, Bielorussia, Russia. E cosa succedeva? Erano più ragazzi dai 20 anni ai 25. Sì, ma lo scopo cos'era? Fare un po' di soldi per pagarsi, esatto, gli studi e farsi un viaggio, ecco. Esatto, si mettevano da parte 3.000-4.000 pound, quelli che tornavano tutti gli anni poi magari diventavano anche supervisor, quindi guadagnavano anche un po' di più. Però scusa, era una bella gioventù, erano persone che conoscevano il valore del lavoro, del sacrificio, cioè rispetto a tanti altri loro coetanei, almeno erano ammirevoli, penso. Tutto sommato era quanto c'era di meglio in questi paesi se a 16 anni andavano a fare il lavoro agricolo per poter essere autonomi. Ne avevano un po' di più, avevano tutti dai 20 in su, io ero la più piccola, infatti. E come ti trattavano? Non mi trattavano benissimo, in realtà. Allora, la cosa divertente è che dormivamo in ex stalle che erano state in orribili stalle, certo, chiaro. ristrutturate sullo strame con... delle mucche, naturalmente. Con 4 letti a castello e un frigo per stanza, e c'erano i dormitori femminili, poi quelli maschili, poi altri erano dei container semplicemente. E te dove ti è toccato andare? Te dove dormivi? Io nella stalla. Nella stalla, beh, giustamente, è l'ultima arrivata. Perlomeno c'erano i muri di mattone. E ero capitata in questa stanza con 4 ragazze, in parte tutte polacche, e una di loro, che poi è diventata mia grandissima amica, mi ha praticamente preso sotto la sua ala protettiva. È come quei telefilm nei carceri femminili, capito? Esatto. Ti salvava dalle altre, evitava che gli atti di violenza, di bullismo. Ti ha insegnato la dura vita dei piantatori di fragole. E poi alla sera andavamo, perché tutta la mattina ci si svegliava presto, si andava nei campi, si raccoglieva, si faceva. Poi venivi pagato a cottimo. Ah, tanto raccoglievi e tanto ti pagavano. Esatto, avevi la tua etichetta. Ce l'ho ancora le etichette, tra l'altro. Avevi la tua etichetta che l'attaccavi sui cestini che facevi. E a pranzo fragole, naturalmente, solo mangiare fragole. Sì, dopo un mese ho smesso di mangiare fragole perché mi è venuta quasi una reazione allergica. Anche erano grosse come mele, poi c'erano... Dei fragoloni enormi, poi tra l'altro c'erano come si dice, l'irrigazione, non era un'irrigazione fatta a mano, perché comunque erano campi giganteschi. Sì, poi le fragole non è che proprio si irrigano con l'acqua. No, erano tutte nascevano dentro dei sacchettoni di terra, dei sacchettoni di plastica, e l'irrigazione entrava proprio dentro questi sacchetti di plastica dove poi nascevano le fragole. Ed era un prodotto, c'erano queste taniche gigantesche che puzzavano proprio come una fogna. Perché le fragole si irrigano, almeno se ricordo bene, con l'urea, praticamente con lo scolo di fogna. Puzzava tantissimo, certo. Quindi ti passava anche la voglia. Sì, è una delle cose più schifose di reazione alla fragola. È buona e bella, ma ne cresce con il liquame della fogna, più o meno, qualcosa, sì, del genere, se ricordo e poi, bene. Le fragole, quelle brutte, comunque le conservavano, i raccoglitori le conservavano, le buttavano in una tanica dove c'erano i dormitori e sì, veniva fuori un alcol potentissimo. Cioè, mangiavate fragole e vi diciamo, sbronzavate con il liquore di fatto con le fragole. Esatto. La grappa di fragola. Sì, sì. מפליע מאייר את חיי בחולת, מנשים את נשמתי, משמיע חגיגי. יש בי אהבה בלי די, יש לי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה לא להיות. ומתנה, מתנה מונית באהבה, נשמה חשוכה. תן לי אותך ולא רכים, תן אהבה בלי תנים, בלי תנאים. So far. אולי אלבש קלימה זוכרת, תפיל הכבי, אחיו מימדי, גם זה לא ישמיע אותי ודי. ואם אקפוץ לגובה, מעבר לאופק, אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק. מה נעשה כדי לעלות? הדרך שלי לעבור, לעבור, לאבד לאיבור. כושי ביקשתי לא תתה לך ליבור. האמת רסק ותחזר לנהור. מתישה וקסומה ולאן אינני מקבלת אותה. אולי חשבתי קצת יותר מדי עליי לעשות את דרכי, שכחתי כמעה אני סתם סתם מהלכת על פני אדמה לא חזקה בעוצמה מתבזבזת על עוד קפה בבוקר ללך על הסרט הבריכה מהאבת מקורלית כל שאבקש לקבל מנשים את נשמתי, משמיע חגיגי. יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק עושה להיות. והמתנה, מתנה מונית באהבה, נשמה חשוכה. תן לי אותך ולא רכים, תן אהבה בלי תנים בלי נעים. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. E poi la vita molto grande. Era ottimo, cercavi di far più veloce possibile, però se tu mettevi le fragole brutte perché non le guardavi bene, ti cancellavano i cestini interi. Rischiosi. Quindi dovevi anche fare attenzione. E c'erano, mi ricordo che c'erano dei ragazzi, che probabilmente ce n'era anche più di uno, però questo ragazzo bielorusso che alcuni si facevano di anfetamine per poter prenderle più velocemente. Vabbè, è cosa terribile, mai vista una cosa del genere. Solo che per prenderle più velocemente poi non si rendevano conto se erano buone o no, e tutti i cestini venivano cancellati. E la sera per consolarsi si sbronzavano con la grappa di fragola. mondo. Vabbè, una vita terribile, visto una situazione veramente ma non so, di vero sfruttamento. Ma vi picchiavano, vabbè, pure, no? Ma anche bene, nel senso, no? Ma vi picchiavano, c'era uno con la frusta che vi... No. No, e non ci picchiavano, però mi ricordo questa scena abbastanza divertente in cui, e comunque c'erano anche delle coppie proprio sposate che o comunque fidanzati che andavano lì per due estati, cose del genere, per farsi un po' di soldi, poi tornare a casa e magari sposarsi, comunque coppie stabilite ormai, sì. E però i dormitori erano maschili e femminili. E quindi? E c'era una generale promiscuità, un patto tra di noi, che se una coppia voleva starsene da sola per qualche ora in un dormitorio, nessuno li andava a disturbare. Quindi voi uscivate tutti fuori dal capannone, che questi due devono stare insieme, aspettare fuori. Sì, poi di notte, nel senso, anche se dormivano assieme non se ne fregava nessuno. Ah, cioè loro trombavano in un angolino, ma cosa terribile. Nei film magari dormivano solo, però nel senso, e a un certo punto cos'era successo? Era tutto iniziato. Cioè nemmeno Tarantino in Django ha fatto uno scenario così terribile fra i piantatori di cotone nel Sud America prima della guerra di secessione, cioè, ma c'era anche la buca, lo chiudevano dentro per punizione? No. Non c'era. Con la botola. Non c'era, però mi ricordo che avevamo come i tavoli, che sono immagini che non me le ricordo mai. Avevamo come tavoli, sai, i rotoli proprio quelli industriali, quei rocchettoni che si mette il cavo. Esatto, i rocchettoni. Quelli erano i tavolini. Ma sì, sì, sì. Dove dormivate? Su un pagliericcio fatto con le pannocchie, no, di Gran Turco? No, c'era proprio il letto, come materasso. Sì, però pieno di zecche, di animali. No, spero di no, non mi sono preso niente, perlomeno. Ma i bagni c'erano? C'era una fossa comune? I bagni in comune. Una fossa, praticamente. Eh? Una fossa comune e via. E un tubo dell'acqua. Non mi ricordo sporcizia, quello non me la ricordo. Però ricordo che una volta c'è stato proprio un evento in cui qualcuno aveva cacciato un coniglio, che tra l'altro non c'erano armi, io non so come l'avessero, una lepre. Aveva ammazzato una lepre, era uscito. Avevano ammazzato una lepre. A colpi di fragola, vabbè, l'ha uccisa. Di alcol, di fragola. E quindi avete mangiato finalmente carne? No, e cosa era successo? E questa cosa aveva creato dissesto in qualche maniera, non si sa bene come il manager o non so chi era venuto a sapere di questo evento drammatico della lepre, ed era arrivato, io sto qui non l'avevo mai visto tra l'altro in 3 mesi che ero lì, era salita in piedi su uno di questi rocchetti alti 1,5 metri, e si era tolto la maglietta proprio da addosso, nudo, muscoloso, sai, da palestrata. Diceva: io sono stato nell'arma e voi non potete qui andare a cacciare. Si era proprio messo a urlare, e aveva tra l'altro detto che era vietatissimo dormire assieme, che non si poteva. Vabbè, le regole del lager, ristabilito le regole del lager, chiaro. Ma ridevano tutti, nessuno se ne sbatteva. Ma questa lepre poi l'avete cucinata? Non l'ho neanche mai visto sta lepre. Girava questa voce: hanno preso una lepre. Esatto, beati loro, mangiano carne finalmente con l'insalata di fragole, lepre alle fragole fare. Vabbè, è stato un momento molto duro, ho capito, un momento difficile. Ma in realtà per me è stato un momento anche divertente, poi c'era molto senso di gruppo tra di noi, quindi alla fine qualunque cosa affronti, se hai un grosso senso di comunità, non so, di gruppo, ti... Beh, guarda, abbiamo parlato della tua vita inglese, di tutti gli aspetti laterali, meno che quello principale, quello che è il tuo lavoro, il tuo quotidiano. Ma come, lo faremo magari un'altra volta, non lo so, quando ci rincontriamo. Tu ogni quanto vieni in Italia che ti incontro in treno? Ma cerco una volta ogni 6 mesi, se riesco, una volta l'anno, ogni volta. Quindi ci vedremo fra 6 mesi se va bene? Sì. Vabbè, in bocca al lupo. Il fidanzato che fa nel frattempo? In realtà doveva venire anche lui con me, però... È rimasto? No, sono io che ho preso i voli e poi mi sono resa conto che in realtà lavoravo il 30 e il 31 e quindi... Quindi hai fatto la notte di Capodanno in corsia? No, no, il di giorno, ho lavorato di giorno, però comunque i voli li avevamo presi per il 28 e quindi l'ha ho dovuto cancellare. Senti, com'è stato il tuo capodanno lavorando? Il capodanno ho finito di lavorare alle 6, sono tornata a casa, poi ho sentito la mia amica indiana per andare a mangiare con lei e la sua famiglia. E sono andata su alle 10, alle 11 sono tornata a casa perché ero troppo stanca. Il cotechino al curry non era proprio il massimo. Vabbè dai, buon viaggio, bocca al lupo, buon ritorno e spero che la parte avventurosa della tua vita non ti abbandoni e non ti lasci soltanto in balia di banali quotidiani problemi da dottoressa e da paziente. Ciao, buon viaggio. Ciao, ciao. Χίλιες φορές με κάθε σου πρώτη ματιά. Φεύγεις, όλο φεύγεις, με πικραίνεις. Τα ναζάκια σου κάνεις και πας να μου φύγεις ξανά. Μα εγώ θα ψάξω να σε βρω, όλα τα λάθη σου τα συγχωρώ. Για τα ματάκια που κοιτώ και τα χειλά σαν αεράκι, άκι σαν θαλασσόκι. Καλοκαίρι, ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.